Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Oggi Salva Danaio, in quella che conosciamo come la sua veste tradizionale, ha deciso di prendersi una pausa. Non abbandoniamo del tutto i temi economici e finanziari legati alla famiglia e alla quotidianità, ma vogliamo affrontarli in modo un po' diverso, con il supporto, il conforto, l'analisi di una voce originale e unica nel panorama degli intellettuali italiani. Questa voce, che tra poco vado a presentarvi, ha voluto qualche mese fa dedicare un lungo e appassionato commento sulle pagine della stampa ai temi della crisi, prendendo a spunto proprio il modo in cui noi, nella fattispecie la nostra trasmissione Salva Danaio, parla e racconta ogni giorno della dinamica della crisi stessa, l'impatto che questa ha tra le persone, la gente, tutta, le famiglie. È una crisi che, come sapete bene, ci ha spiazzato completamente, per gli effetti che sta ancora propagando, per i sacrifici che ci chiede, per i posti di lavoro che continua a bruciare, perché un po' è una crisi che è stata democratica, perché ha impoverito tutti. E sono proprio questi i temi che, anche se in apparenza sono molto distanti da lui, hanno stimolato la riflessione di Guido Ceronetti, che questa mattina è collegato telefonicamente con noi e ci ha voluto fare questo regalo di Pasqua. Guido Ceronetti, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Eccoci qua, la sentiamo benissimo e noi siamo molto contenti di averla qua, di aver accettato, la vogliamo ringraziare per aver accettato di stare in nostra compagnia in questo Venerdì Santo, e soprattutto la ringraziamo per aver offerto la sua compagnia ai nostri ascoltatori e a tutti coloro che la seguono e l'apprezzano con tanto affetto e passione. Tutto bene questa mattina? Insomma, abbastanza. Benissimo. Allora, Guido Ceronetti, per chi non lo conosce, io mi servirebbe solamente tutta la trasmissione per presentarla, per raccontare tutto quello che ha fatto, per raccontare tutto quello che ha scritto. Io peraltro sono anche piuttosto emozionata e mi sento anche un po' inadeguata nel condurre questa conversazione, ma spero di poterla fare al meglio. Prenderò a spunto i temi che mi sono più familiari, Guido, per poterli commentare con lei, che sono proprio i temi economici che, come dicevo, hanno suscitato anche la sua voglia di commentarli sulla stampa, ma anche su altri quotidiani. Guido Ceronetti, oltre che essere un collega giornalista, perché vi dicevo scrive molto su molti quotidiani, è uno scrittore, appunto, è un drammaturgo, è filosofo, è poeta. Nel 1970 ha fondato il Teatro dei Sensibili. Guido, come racconterebbero oggi le sue marionette la crisi finanziaria che ancora ci investe in maniera così dirompente? Ah beh, se ne guarderebbero bene, perché non è un argomento per loro. Ah no, e quindi diciamo anche da questo punto di vista lei mantiene il suo distacco da questi argomenti. Non hanno mai avuto riferimenti, salvo proprio sporadicamente e casualmente con l'attualità. Allora, io ho raccontato prima che ci è venuto in mente di coinvolgerla a Salva Danaio perché lei aveva scritto questo commento sulla stampa il 25 novembre scorso, intitolandolo, il commento è stato poi intitolato appunto dal quotidiano, Istantanea di un mostro. Il mostro a cui si riferisce è lo spread, del quale parliamo in maniera tanto diffusa da tanti mesi, un termine con il quale molto pochi di noi si erano confrontati e imbattuti appena un anno fa, e poi dalla scorsa estate invece abbiamo dovuto fare amicizia, nostro malgrado, con questo termine, e soprattutto noi che ci occupiamo di giornalismo economico finanziario abbiamo dovuto cominciare a raccontarlo e a spiegarlo ogni giorno, lui e tutti gli effetti che sui mercati ha comportato. Faccio sentire, Guido, un pezzo che abbiamo letto ieri con il nostro speaker di questo articolo e poi lo ricommentiamo insieme. Questa parola di una lingua che sta poco a poco prepotentemente scacciando la nostra, e pagheremo caro il rifiuto di difenderla dallo stupro, nel suo idioma di origine significa innocentemente diffusione, espansione e altre cose. A stravolgerla è stato il gergo della borsa americana, e qui il mio rifiuto di tuffarmi in questo ignoto dalla brutta grinta mi impedisce di inseguirla nei suoi significati, che inquietano e spaventano la povera e pulita gente alla quale desidero fino all'ultimo appartenere. Non mi occupo di spread, ma di destino umano. La vecchiaia non è una meringa, è più indigesta dell'olio di merluzzo. Ma, come l'olio di merluzzo, contiene una vitamina delle più preziose e rare. Ti toglie una quantità di preoccupazioni del domani, ti fa sorgere spontanea l'adesione alla massima evangelica. Basta ogni giorno il suo male. Il male di ogni giorno ride di quel che sarà lo spread del giorno dopo e di quel che sarà in un inesistente domani il futuro pensionistico di figli spesso ancora in mostra sul passeggino. Sciaguratamente, l'ossessione di un'economia che non ha il minimo aggancio col significato della sua origine greca, legge della casa, che non entra nelle case, che è una mera astrazione, un'ipotesi contraddittoria e sposta capitali enormi attraverso onde improbabili immaginate al di là dell'orbita, capitali che sono vuoto su vuoto, pur facendo impazzire gli stati, le più potenti come le più franose nazioni. Ma i calcoli sono fatti da macchine onnipotenti, che danno vita a statistiche che pochi soltanto ritengono di saper interpretare. Ma le percentuali che ci vengono presentate inoppugnabili, che oracoli sono? Non sono povere pizzie senza il Dio? Pizzie da marciapiedi? Eccoci di nuovo insieme a commentare quello che lui stesso ha scritto qualche tempo fa sulla stampa, Guido Ceronetti. Io tra l'altro volevo segnalare ai nostri ascoltatori, se non se ne fossero accorti, che siamo in diretta anche questa mattina e quindi se volete potete intervenire e commentare anche voi insieme a noi questi argomenti, i termini generali della crisi, come li abbiamo raccontati, vi abbiamo spaventato, indispettito anche in certi momenti. Chiamateci all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666, fateci compagnia questa mattina a Salva Danaio e con Guido Ceronetti. Allora, questa parola è proprio un mostro, Guido? Lo spread? Ma è un mostro come tutte le altre parole di gergo prese dall'inglese o espressioni che ricavate dall'inglese vengono ancora più storpiate in italiano o dalla pronuncia italiana. Insomma, modestamente io sono un difensore della lingua italiana, quindi queste parole non sono un mostro, ed è un mostro due volte è proprio la parola spread, perché significa poi a sua volta qualche cosa che in sé è fatta per inquietare, quindi è una parola profondamente anche ansiogena. È proprio, perché tanti non sanno nulla di che cosa si tratta. E infatti spiegarla non è vero questo, perché in realtà io ho letto molti articoli nei quali lei i temi economici me l'hanno spiegato, allora ho cercato di afferrare il significato, ma però non, cioè, mi resta ostico, soprattutto poi nel caso mio, mentre invece ha un effetto ansiogeno, su di me non ne ha proprio nessuno. Che vada su o che vada giù, per esempio, viene dato in modo come se la cosa sia possa inquietare oppure quietare. In realtà su di me non fa nessun effetto, perché non solo non la capisco, ma non appartengo al futuro né al presente di questo spread. Ritengo che ci sia qualcos'altro che valga più la pena di essere inquieti oppure di essere calmati. Allora, tra l'altro, è indifferente. Guido, io così vorrei anche portarla un po' sul terreno del linguaggio in termini generali, nel senso che questa sua riflessione sulla questione dello spread e il distacco che lei ha da questo argomento, per fortuna, ci dà modo anche di fare una riflessione sulle modalità con cui è stato utilizzato il linguaggio per raccontare la crisi. Abbiamo utilizzato spread, anche se in realtà ha anche una traduzione italiana molto chiara, che lei racconta anche in questo pezzo che abbiamo citato, appunto questo del 25 novembre sulla stampa, perché significa allargamento, divaricazione, e insomma i sinonimi sono tanti. Ma se andassimo un po' a riflettere in termini più generali sulle modalità modalità con cui questa crisi, dal 2007 ormai ce la portiamo dietro, noi giornalisti ma non solo, la stiamo raccontando e commentando. Guido, quali sono le modalità che hanno dato secondo lei più fastidio anche alla gente comune, a quegli ultimi ai quali lei appunto dice di essere molto vicino? Appunto, come l'abbiamo raccontata? L'abbiamo raccontata male oppure l'abbiamo raccontata in maniera realistica? Abbiamo raccontato quello che è e quindi abbiamo fatto anche un buon lavoro. Insomma, qual è la percezione che ha lei dal suo punto di vista, così come dice, distaccato? Diciamo che per quanto riguarda i problemi umani resi evidenti, tristemente evidenti da questa cosiddetta crisi, che in realtà è qualcosa di ben più largo. Allora, per quanto si tratta di questo, è tutt'altra cosa. Quando avevo sentito o letto qualcosa del fallimento della Lehman Brothers, che è poi quello che viene dato come inizio, no, della crisi, come quella del 29, dal collo di Wall Street. Allora non avevo provato proprio niente, dico vabbè, queste cose. Il fatto in realtà implica cose del destino umano, siccome ho scritto legittimamente, perché per me è normale di pensarlo, che in realtà io mi occupo di destino umano, adesso io ne sento investito il destino umano, e allora il mio pensiero a riguardo della crisi, ma semplicemente allargando molto quello che può significare, è cambiato. Perché? Cioè, le parole che riguardano i vostri problemi, quelli del che mette così chiaramente in evidenza lei a Salvadanaio, quelli non mi riguardano. Non so, le riunioni di condominio, ma non ho mai partecipato a una sola. La vendita dell'usato, il traffico di qualsiasi cosa. Le tasse, i mutui, i prestiti e tutto questo. È tutto quello che, per me è proprio quello che gli stoici chiamavano adiafora. Sono cose che sono del tutto estranee. E poi gli investimenti, le preoccupazioni per gli investimenti, figuriamoci. Sono sempre stato contrario agli investimenti, serviranno a qualcosa. Lei ha fatto un investimento, Guido, in altro, no? Ha coltivato la sua cultura, la mente, diciamo che va bene, l'intelletto, questo, ecco. Quindi ma non l'investimento del denaro che partorisce denaro, ecco, quello per me do il lavoro. Mi viene pagato, sperando che sia pagato un po' meglio di quanto non lo sia adesso, ma è tutto lì. Il lavoro ho sempre vissuto così, adesso sono vecchio. Ecco, però faccio, Guido, questo così. Distacco ma da questi... Si è fermato lì, non ho mai investito. Ecco, ma questo distacco dai temi finanziari molto concreti e molto basici, quelli delle abitudini delle persone, lo considera un privilegio? Perché poi comunque portando la sua penna sui giornali con commenti su questi argomenti mi sembra che invece un pochino la tenti, non hanno comunque l'osservazione di questi argomenti, la tentano, o sì, no? Perché hanno un significato diverso, capisce? Cioè rientrano per implicazioni psicologiche e anche metafisiche nel destino umano e quindi nel male umano. Qui sono all'opera certamente delle forze che non cominciano né per A né per B né per C, ma di qualche cosa che ci è ignoto. Allora un momento, qua questo mi riguarda, ecco. Allora, facciamo una cosa, io adesso faccio un po' di ordine mentale su queste ultime riflessioni e da queste ripartiamo nella seconda parte della nostra trasmissione fra qualche minuto, dopo la terrenissima Guido pubblicità che dobbiamo mandare in onda per forza. Ci fermiamo, continuo ad invitare i nostri ascoltatori se vogliono a scriverci al 349-238-6666, ci sono molti che la salutano con affetto, poi magari le leggo qualche messaggio e se volete potete anche scriverci, perché Guido Ceronetti molto volentieri ci ha detto che vuole anche interagire con voi in diretta all'800 24 00 24, dunque vi aspetto tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi Salvadanaio si è preso una giornata di pausa, come vi dicevo all'inizio, e si è concesso una licenza un po' intellettuale. Siamo molto distanti dai temi che trattiamo di solito, però abbiamo voluto fare questa operazione originale grazie al fatto che una personalità molto autorevole del panorama intellettuale italiano, quella di Guido Ceronetti, aveva voluto dedicarci una grande, graditissima attenzione in un commento sulla stampa nello scorso novembre. Noi abbiamo meditato un po' e abbiamo pensato di approfittare di questa giornata del Venerdì Santo appunto per invitarlo a Salvadanaio per commentare con noi in termini generali le tematiche economiche e finanziarie, perché anche se lui se ne dice molto distaccato, dice che non gli interessano, in realtà poi stimolano la sua curiosità intellettuale e quindi ne scrive molto. Tra l'altro, ancora Guido, buongiorno, lo risaluto, siamo andati in pausa e voglio raccontare ai nostri ascoltatori che questa mattina è in diretta con noi e gli ascoltatori buongiorno, ci possono una parola. Certo. Di commento a questo che a questo che ho dire. Detto. Sì. Il mezzo della trasmissione è la voce della conduttrice. Questo stimola la mia ammirazione e anche probabilmente il mio interesse per i temi economici. Quindi viva Deborah Rosciani. Non cercavo i complimenti, però io la ringrazio infinitamente. Adesso sono ulteriormente imbarazzata e se non fosse che lavoro in radio, se fossi in televisione in questo momento si vedrebbe il vermiglio che ha assunto il mio incarnato, Ceronetti. Sono diventata viola in questo momento. Comunque grazie molte, ci proviamo. Ce lo siamo raccontati anche a microfoni spenti, perché io ho negoziato un paio di giorni con Ceronetti per averlo qui a Salvadanaio e abbiamo proprio interloquito un po' relativamente alla questione della voce e alle modalità con cui le notizie vengono trasmesse, e a Guido ho raccontato come in certi momenti raccontare la crisi recente sia stato molto difficile e bisogna dare l'intonazione sempre assolutamente corretta alle notizie, per l'appunto, perché qualche volta gli ascoltatori contestano questo modo, se siamo un po' troppo agitati, ovviamente dalla radio lo trasmettiamo molto chiaramente, anzi forse lo enfatizziamo. Se siamo troppo calmi di fronte a notizie negative, ci contestano questa tranquillità e ci dicono che non raccontiamo in maniera sufficientemente realistica le notizie, le questioni economiche che sono molto gravi e molto serie nel nostro paese in questo momento. Guido, ce l'ha da lei una ricetta giusta per raccontare le cose? Lei le scrive naturalmente sopra. No, a me sembra che le raccontiate benissimo. Mm. Cioè non ho obiezioni su questo. Mi sembra che siano raccontate bene, con chiarezza, Che non ci sia niente di troppo e niente di troppo poco. Anche perché se abbiamo avvicinato lei alle questioni di condominio e alle questioni degli immobili, alle questioni delle tasse e dei mutui, significa che forse abbiamo fatto un lavoro discreto, insomma, non dico buono, perché per essere buoni e ottimi... Sì, la mia passione è fatta dal piacere di esserne fuori, ecco. Cioè, non sono immischiato in queste faccende. Questo è veramente liberatorio, è un po' come dice crudelmente Lucrezio nel suo secondo libro, cioè che piacere stare a riva e guardare le navi che non riescono ad attraccare, che naufragano, che... Cioè un poco questo piacere. Un po' sadico, se vogliamo anche, però esatto. Guido, io le faccio sentire invece chi... con i problemi concreti si scontra tutti i giorni, vuole dirci la sua e quindi vuole intavolare questo dialogo con lei. Alessandro da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e buongiorno al suo ospite. Mm. Sì, volevo intervenire dicendo, parlando della vita reale di ognuno di noi, affermando che innanzitutto dovremmo tutti fare un passo indietro, ma renderci conto della differenza del valore aggiunto dell'artigiano, dell'imprenditore, delle cose che hanno veramente valore rispetto alle cose che sembrano distanti anni luce, come l'alta finanza. Cioè ognuno si dovrebbe prendere le proprie responsabilità e decidere a che tavola mangiare, cioè a mangiare nella tavola del valore reale, delle cose reali, percepite, pratiche, da toccare, rispetto a valori di alta finanza, e mai mescolare le due cose, perché sennò i destini poi nel mescolarsi si confondono, e uno non sa più perché va a lavorare, non sa più perché paga tante tasse, non sa più magari perché il proprio stato va male, va bene, non si sa, ormai si confonde tutto. Ecco, questa è la voce di chi chiaramente tutte le mattine si alza, va a lavorare, guadagna, ma il proprio guadagno poi si perde in questi rigoli di e anche grandi fiumi di incertezza, soprattutto finanziaria. Ecco, questo era il mio contributo. Secondo lei, grazie Alessandro, abbiamo le capacità di fare questo passo indietro in questo momento? Adesso questo passo indietro è obbligato, date le condizioni nuove che questa crisi ha determinato all'interno di molti nuclei familiari? Lo dicevo all'inizio, sicuramente per molti di noi è una crisi che è stata spiazzante. Che ne dice Alessandro? C'è ancora con noi? Ah no, ci ha lasciato, non importa. Ceronetti, Alessandro diceva: dobbiamo fare un passo indietro. Lei ne ha fatto uno importantissimo, anche proprio nelle sue abitudini concrete, quotidiane, alla fine degli anni 50, quando ha deciso di bandire dalla sua tavola tutto ciò che era carne, e quindi si è completamente convertito all'alimentazione appunto vegetariana. Adesso non lo so se ho fatto un volo pindarico eccessivo, però questo pensiero di Alessandro mi ha portato anche a raccontare di questa sua scelta molto drastica del passato, quindi distaccato dai temi concreti, ma mica tanto, perlomeno in quel periodo non lo era. Diciamo che sì, il volo è un po' troppo pindarico. Ho esagerato. Perché una cosa è un certo problema di alimentazione umana, allora posso infilarmi in quel corridoio. Una cosa sono i temi della crisi, circa il valore reale a cui si riferiva l'ascoltatore, ma è soltanto in quei termini reali che io posso vedere la questione della crisi, cioè quella portata proprio dentro le case, immidollata nelle esistenze umane. E adesso di questo ce ne accorgiamo fin troppo, perché cominciano a spesseggiare in modo impressionante anche i suicidi per questi motivi. E allora lì bisogna che si fissi la nostra, perlomeno l'attenzione di chi vuole pensare, ecco. Quindi lì la fisso. Guido, l'hanno colpita, mi ha bloccato questa riflessione che lei ha fatto poco fa, l'hanno quindi colpita, da quello che ho percepito, molto queste storie di questi imprenditori, ma non solo, che hanno deciso di rifiutare la vita perché non ce la facevano più a fronteggiare appunto la crisi. È un tema che... Ma accidenti, l'Italia non è un paese da suicidi, da epidemie di suicidi, non è né Vienna né la Svezia né l'Ungheria. L'Italia è un paese dove il suicidio facile non esiste. E invece adesso è diventato una... sono una quindicina, non lo so, mi pare, negli ultimi due mesi. Cioè, ed è proprio questa... vita concreta, quella a cui posso pensare, che mi ha provocato un risveglio non ai temi, ma all'alitare umano di questa sofferenza per questi motivi, che poi si intrecciano ad un certo punto. Uno sente, ha ragione il vostro ascoltatore dire che quella non è l'alta finanza. E qui potrei dire, per quanto riguarda il governo Monti, non ce n'è uno, diciamo un po' tutti, ma uno che più di questo sia distaccato dalle cose reali, anche se viene tirato giù per forza dagli eventi. Ma un piccolo paragone che si può fare, no? Invitare Monti e il suo governo a fare come facevano i principi di una volta, ecco, scendere travestiti nei mercati, ascoltare i pareri della gente, le lamentele, la tristezza, visitare lì, andare, come diceva Santa Teresa, farsi scopini delle latrine dell'anima. A un certo punto questo può aiutare a capire. Ma bisogna scendere, non restare sopra, perché se no sopra è l'astrazione. Mentre qui abbiamo qualcosa che sanguina, allora bisogna prestare orecchio a questo lamento che sale, perché una misura può essere giustissima, legittimata e legittima, e nello stesso tempo essere una coltellata che provoca il fatto che una persona si butti dal balcone senza che ci pensasse due volte prima. Ecco tutto, bisognerebbe proprio che da questa astrazione si scendesse nell'esistere quotidiano, e non quello delle aule o dei voli in Asia o in America, perché qua c'è qualcos'altro. E purtroppo bisogna anche proprio essere... Il problema è essere più vicini, certo. Ma molto più vicini. È anche vero, Guido, che la nostra storia oggi racconta di una globalizzazione economica con la quale però dobbiamo fare i conti, per cui, così come i nostri governanti, e succede anche per quelli degli altri paesi, non possono più permettersi di tenere solo sotto osservazione ciò che accade all'interno dei confini domestici, perché oggi apparteniamo ad un mondo globale. Come si fanno a mettere insieme queste due cose, pur condividendo completamente la riflessione fatta fino a questo momento con il principe che deve ritornare a travestirsi da mercante, a guardare che cosa succede al mercato, tra la gente? Diciamo che non si conciliano, fa parte del dramma in generale. Cioè uno non può staccarsi di là nello stesso tempo attaccarsi di qua, però... È un guaio se non lo fa, è un guaio se non fa quell'altra cosa. È un brutto mestiere governare. Ecco, questo è un altro bell'argomento, infatti. Però, come dire, qualcuno dovrà pur farlo. E questo è il momento in cui prendere la decisione. Per questo non bisogna essere ottimisti. Non ci vuole ottimismo. Se c'era un errore grave di incomprensione dell'esistere, era... l'ottimismo berlusconiano, quello che ti faceva uscire dai gangheri letteralmente. Invece ci vuole quel tanto di goccia di amaro, però naturalmente tu metti la goccia di amaro e calano disastrosamente le borse, allora senti che c'è un soffio di perdizione in tutto questo. Guido, qui non abbiamo difese. E si allarga anche lo spread, lì ritorniamo all'origine di tutta questa conversazione. Come ha detto alla fine dell'intervista che qualche tempo fa lei ha fatto con Fabio Fazio su Rai 3, a Che Tempo Che Fa, Fabio a un certo punto, Fazio ha detto, una delle più grandi volgarità della televisione è il tempo, ed è esattamente la stessa cosa per la radio, perché il tempo ci impone in questo momento di fare un'altra pausa e ci risentiamo tra pochissimo dopo i suggerimenti, perché in viaggio sentiamo un po' se siete già in partenza lungo le autostrade italiane. E dopo averli completamente disorientati all'inizio della trasmissione, perché oggi Salvadanaio ospita uno scrittore, un filosofo, un poeta, Guido Ceronetti, adesso invece vedo che gli ascoltatori si stanno appassionando alla nostra conversazione che ha preso le pieghe più impensate. Guido Ceronetti, siamo addirittura andati a come dire, giudicare, se vogliamo, dal nostro modestissimo punto di vista l'operato di questo governo che naturalmente affronta una crisi importante, le grandi dinamiche finanziarie internazionali, e fino a questo momento ha peccato nel non essersi riuscito a calare tra le problematiche della gente. Su questo lo abbiamo invitato, lo ha fatto Guido Ceronetti per noi. Le faccio sentire un altro ascoltatore, Guido, d'accordo? È caduto la telefonata, adesso allora lo ripeschiamo. Non credo che ci avrà salutato, perché gli avevamo appunto chiesto e lui ci aveva data molto volentieri la sua disponibilità fino al termine della trasmissione. Peraltro ci mancano ancora pochissimi minuti, ma non ho capito se è caduto Guido Ceronetti o l'ascoltatore. Ah, Guido, ecco, ci siamo. Sono caduto. Sono in piedi per miracolo. No, presentissimo e lucidissimo, io questo devo dirlo, molto meglio appunto di tante altre persone che si spacciano appunto per lucide, sempre ben presenti a se stesse, e invece sono tutt'altro che così. Guido, ci lascia una riflessione legata al Venerdì Santo? Ce la facciamo, secondo lei, in questi giorni, da qui a Pasquetta, a Lunedì dell'Angelo, a lasciare da parte le preoccupazioni economiche? Come possiamo vivere questi giorni in una condizione di serenità, se vogliamo, spirituale, affrancandoci dalle problematiche, dai pensieri materiali, oppure è una condizione oggettivamente impossibile per l'uomo economico del 2012? A me veramente le feste non sono mai piaciute, e quindi non le faccio, le ignoro. Per il Venerdì Santo ho invece una simpatia, anche perché ci sono delle processioni molto belle, molto e molto suggestive. Il trionfalismo pasquale lo ignoro. Sulla Pasqua ebraica anche ne so abbastanza per averne rispetto, ma d'altra parte le feste, specialmente questa, significano soprattutto una spaventosa ecatombe di poveri animali, in specie l'agnello. E allora proprio questo mi fa vomitare, non le va giù. Disgusto. E allora niente, ma nel Venerdì Santo almeno si dovrebbe mangiare di magro, e allora anche un vegetariano assoluto può accomodarsi per il Venerdì Santo. Lo vede che non è molto distante dai nostri problemi, perché anche noi ci occupiamo del carrello della spesa, di come lo dobbiamo riempire, chiaramente alleggerendo soprattutto il portafoglio, perché noi di quello ci occupiamo, ma magari oggi siamo riusciti anche a dare delle indicazioni di comportamento che possono stuzzicare la sensibilità delle persone che ci ascoltano. Guido, io vorrei un altro suggerimento da parte sua, perché dopo questa conversazione ci impegneremo molto di più nel cercare di raccontare bene quello che ci accade intorno. Ce lo dà un suggerimento concreto su quello che dobbiamo fare, a prescindere dal fatto che la ringrazio dei complimenti iniziali, ma noi vorremmo crescere. E siccome questa crisi morderà ancora, ho sentito che lei è particolarmente sensibile al fatto che governanti devono calarsi un po' di più nella quotidianità e tra la gente. È questo il terreno che noi dobbiamo seguire anche come lavoro di comunicatori, secondo lei? Beh, un po' più di polemica col potere non guasta mai. Si può averne rispetto, ma la critica da parte di noi giornalisti deve essere sempre viva e attuale e attenta. Cioè, anch'io sono stato contento del cambio di vertice. Però il guaio è che è rimasto un cambio di vertice, quindi siamo ben lontani dal capire qualcosa di più. Ma perché lei si aspettava qualche decisione più incisiva e più forte? D'altronde questo governo è al governo da pochi mesi. Non lo voglio giustificare, è solamente una riflessione che faccio e che mi viene in mente adesso. Non ha bisogno di un po' più tempo, oppure erano necessarie azioni più forti, più dirompenti subito? Perché in molti comincio a sentire di chi li sosteneva appunto da subito e li guardava con favore naturalmente, che insomma forse in molti, appunto, ripeto, sento che forse dovevano essere più incisivi nell'azione. No, qui non mi pronuncio proprio perché non saprei, non è questo che io possa dire minimamente. Non so se sia stato incisivo o meno. So che dove è stato affondato il bisturi ha fatto anche dei disastri e li sta facendo. Allora, attenzione, usare dei mezzi meno drastici, ma non posso suggerire nulla a nessuno, specialmente a chi ne ha la responsabilità. Soltanto posso dire attenzione, perché la pelle ferita fa male. E mi accorgo di questo. Mi accorgo che sale un lamento e un disagio che è portato non c'è un responsabile, c'è una catena di responsabilità, irresponsabilità e anche di incapacità di vedere. Ecco, forse aumentare la capacità di osservare da vicino le cose, metterci anche una lente, avvicinare, sarebbe utile, ma quanto a misure, che cosa volete dica io? No, non diciamo più nulla, Guido, anche perché il tempo, che è il grande tiranno della radio e della televisione, come diceva Fazio, ci impone adesso di fermarci e nonostante tutto anche oggi devo mandare in onda la pillola che riguarda le pensioni di vecchiaia dell'INPS. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Fino allo scorso anno, per avere la pensione, occorreva aspettare un certo periodo di tempo dal momento della maturazione dei requisiti, 12 mesi per i dipendenti, 18 per gli autonomi. È ancora così? No, non è più così. Con la riforma, il sistema delle cosiddette finestre è stato definitivamente abolito. Con le nuove regole, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti, cioè l'età pensionabile e l'anzianità contributiva minima, dal 1 settembre successivo per il personale della scuola. Condizione necessaria per l'erogazione della pensione è la cessazione del rapporto di lavoro in essere al momento del perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione. Quindi, in definitiva, il lavoratore che matura il requisito per la pensione di vecchiaia non dovrà più attendere un anno o un anno e mezzo prima di poter cominciare a incassarla. E dopo il nostro dovere il saluto a Guido Ceronetti. Guido, Salvadanaio è un contenitore troppo ingiusto per ospitarla, meriterebbe tanto di più, noi però siamo stati felici di averla con noi anche se per poco più di mezz'ora. Le auguro buona Pasqua, ci sente? Ci ha già salutato Guido Ceronetti. Niente, non riusciamo appunto ad avere questo saluto finale, però noi con grande affetto lo salutiamo, ci ha fatto compagnia a Salvadanaio e intanto da Deborah Rosciani, buona Pasqua a tutti, ci sentiamo martedì prossimo.